Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui alle 8 e 21 minuti, caro Oscar, ci siamo. Allora, buongiorno. Giovedì 25 maggio, buongiorno a tutti. Io voglio rassicurarti, Alessandro, che i preparativi di casa mia vanno sempre avanti, fervono. Sì, perché i 5, sì, oramai si sono divisi in due correnti, fanno le primarie. Sì, hanno deciso, sì, i perché, gatti. Sì, perché il programma di uno che ha iniziato a miagolare un accento toscano e 80 croccantini per tutti, e invece, invece gli altri, no, si sono subito divisi perché gli altri hanno detto no, vogliamo il reddito. Ma per tutti o per i gatti un po' magrini? Il reddito di gatti d'adinanza, no. E quindi è così, ma figurati, casa mia ormai. Secondo me 80 croccantini per i gatti un po' sciupati. No, 80 no, pasto, cioè 4 volte al giorno, capito? Sì. Solo che ormai è incredibile, così facendo si rivolgeranno al TAR, un disastro. Sì. L'ingresso alla politica tra i gatti di casa mia si capisce subito che finisce che male. Finisce male. Uno finisce. Ha detto io voglio fare il direttore generale della sono RAI. Sono per il proporzionale o per il maggioritario? Per il momento mi pare che dalle mazzate che si danno finiranno col proporzionale. Sì. Questo è, sì, sì. Si metteranno d'accordo però su una legge elettorale. Sì, no? Sì, sì, si metteranno d'accordo, ma dai, se metterà d'accordo sul proporzionale significa che praticamente voteranno, nel senso che ognuno voterà a se stesso. Credo che questo sia, per il momento vedo questi sviluppi sull'animalismo di casa mia, e soprattutto iniziano a voler corrompere anche gli umani, cioè stanno diventando politici veri. Politici veri. Sono per le quote rosa? O? Beh, le femmine sono in minoranza, quindi come sempre vedo che anche lì i maschi dicono di sì, ma però poi alla fine è un po' così. È così. Vabbè, dovremmo iniziare questa sitcom, I 5 gatti di Oscar. Ma ci sarebbe molto da imparare, perché alla fine credo che gli delegheremo il governo, con tutti i loro errori mi sarebbero meno peggio della politica italiana, com'è davvero, almeno secondo me questo. Senza fare il qualunquista, non lo dico per qualunquismo, dico che se ci portano al proporzionale la penso come il ministro Carlo Calenda. Comunque, ieri. Vabbè, detto tutto Ragu Artù, putipù. Detto questo, oggi è Beda il Venerabile è un grandissimo monaco britannico, scozzese di nascita. Stiamo parlando a cavallo tra il 600 e il 700 d.C. ed è una delle più grandi figure di riferimento per l'intero medioevo cristiano ed europeo, perché da monaco benedettino iniziò, avendo nozioni di greco e una curiosità assolutamente inesauribile per la lettura e lo studio, a scrivere manualetti, tomoni, librini e libretti su praticamente qualunque branca del genere delle conoscenze dell'epoca. E questi diventarono, insieme a Isidoro di Siviglia, insieme a pochi altri, i veri punti di riferimento di tutto il medioevo cristiano. Da come muovere le mani mentre si parla alle bestie note ignote, dalla filosofia ontologica alla teologia, dalla interpretazione dei sacri testi fino a Aristotele, la fisica e la logica. Ecco, Beda è venerabile, è non solo una delle figure di riferimento delle isole britanniche, ma è uno dei grandissimi santi europei nell'alto medioevo. Allora salutiamo il nostro Beda romano. Il nostro Beda romano è nel nord Europa, infatti il nome Beda è rimasto punto di riferimento assoluto nei secoli. Da noi sembra un po' strano sentirlo, ma invece è appunto riconosciuto dottore della Chiesa poi proprio per questa ragione qua. E anche il giorno del santo, un santo di tipo un po' diverso, Gregorio VII, il Dobrano da Siena, che è il grande papa della lotta per le investiture, dicendo il potere lo do io come papa, non te imperatore, cioè praticamente il papa che scomunica Enrico IV, l'imperatore tedesco che viene nella neve di fronte al castello di Matilde Ricanossa per dire no, va bene, non facciamo la guerra, e poi finirà malissimo perché invece Gregorio VII pagherà fino alla fine la durezza nel dire il potere temporale sono io. Ecco, stiamo parlando del 1200, fino al 1200, non amato per nulla da Dante Alighieri. 1916, l'Italia oggi istituisce l'ora legale, 1977 esce negli Stati Uniti il film che resterà il più visto e ancora oggi non è finita l'intera saga, la storia del cinema, cioè Guerre Stellari. Pensate quanti anni sono già passati, sì. A me sembra ieri, e ero giovane, ma mi sembra ieri davvero. E nel 1992, ieri tutti a ricordare, ed è giustissimo, la strage di Capaci, però oggi la politica italiana dovrebbe ricordarsi degli effetti della strage di Capaci. La strage di Capaci avviene mentre si stava votando per il Quirinale. Io ero in transatlantico perché seguivo per conto del PRI, di cui ero dirigente nazionale oramai da anni, le vicende, perché Andreotti stava per diventare Presidente della Repubblica. Non dimenticherò mai, all'arrivo della notizia, che ancora pochi sapevano, l'uscita dalla stanza dei ministri del portavoce di Andreotti, che aveva una faccia come se avesse visto la morte, perché era inevitabile, immediato, ripeto, prima ancora che sapesse la notizia che Andreotti sarebbe caduto per effetto della strage di Capaci. Io ero felicissimo, se no che nel giro di poche ore poi rimasi atterrito, perché Pannella prese Craxi e gli disse: votate per Oscar Luigi Scalfaro. Pannella se ne è pentito fino all'ultimo giorno della sua vita, però ecco, la conseguenza dell'assassinio di Falcone fu esattamente questo, trovarsi Oscar Luigi Scalfaro al posto di Andreotti, perché la strage di Capaci rendeva, per le accuse di Andreotti, impossibile, ancora più impossibile, votare Andreotti con l'accusa di mafia alla Presidenza della Repubblica. Era il compleanno oggi di Enrico Berlinguer e di Padre Pio, due figure iconiche dell'Italia divisa in due, diciamo, nel Novecento. Io però faccio anche gli auguri al mio amico Marco Cappato. Allora, le 8:27 minuti, caro Oscar, noi dovevamo parlare di un argomento, però ci ha colpito, se volete chiamarci, anche la visita di Trump, se volete, sì. all'800240024. Una visita di Trump che oggi mi ha colpito, leggendo la segna stampa, Massimo Gramellini che sì. Nel buongiorno, nel suo caffè, anzi no, il buongiorno era sulla stampa, nel suo caffè sul Corriere della Sera, dice: non basta queste ossessioni verso il nemico, in questo caso Trump, da tutti, viene visto da molti come, non so, quello che sgomma con l'auto presidenziale, che era la stessa che aveva Obama, non è che se ne è fatta una nuova Trump, oppure le accuse, vedete, è l'unico che ride in questa foto in cui tutti sono cupi, effettivamente anche il Papa un po' cupo. No, il Papa all'inizio era cupissimo, alla fine no, ma all'inizio era deliberatamente col labbro serrato. Insomma, se Trump poi fosse meglio di quello che molti hanno dipinto, ecco, io posso all'inizio. Dire che ieri l'ho pensato allo stesso modo, perché sull'incontro Papa-Trump, proprio colpito dalla diversa espressione nelle fotografie, alla fine ho letto nel tardo pomeriggio, in serata, ben 8 commenti diversi. Poiché mi era evidente dal fatto che ognuno rappresentava l'incontro in maniera totalmente divergente, che non c'era una fonte vera, ho alla fine concluso che ciascuno di questi editorialisti attribuiva al Papa la propria idea di Trump. Ho capito, però il giornalismo non dovrebbe essere questo, secondo me. No, esatto, perché fonti non ce n'erano. Comunque, in realtà, noi vogliamo anche parlare del Partito degli Animali. La nostra Elisabetta Fusconi, sai come ha titolato questa puntata? Animali in Parlamento. Appena arriva qua, è un equivoco. Questo è un equivoco, è come dire che il Vespa è un giornalista. Lui stesso dice che non è così e ha ragione. È un artista, e quindi non tento a dire che gli animali in Parlamento ce l'abbiamo già, perché gli animali si offendono. No, eccolo lì. No, il partito animalista. Allora, sapete che Berlusconi ha lanciato questa idea con Michela Vittoria Brambilla, quella di fare una lista, forse di appoggio a Forza Italia, sugli animali, ha snocciolato tutte le cifre, i sondaggi. La sensazione è: ma c'è bisogno, come c'è stato, non so, per i pensionati, il partito dei pensionati, per occuparsi dei pensionati? Ci vuole il partito dei verdi per occuparsi dei temi ambientalisti? Salutiamo Fulvio Mamone Capria, presidente della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, io ho una grossa perplessità da quando ho visto, sicuramente mi sembra un'operazione di marketing, però vorrei capire, perché molte associazioni di animalisti dicono: ecco, ci ha rubato l'idea Berlusconi. O meglio, ha occupato uno spazio dove effettivamente c'è dell'interesse. Lei come la pensa? Ma sicuramente lo spazio c'è, e secondo me ci sono anche i voti. Quindi questa operazione è molto coraggiosa e va a stimolare quello che non ha fatto il PD negli ultimi 3-4 anni, tranne alcuni casi eccezionali di deputati e senatori che ovviamente la causa animalista e ambientalista la portano avanti in Parlamento. Purtroppo con il governo Renzi, ma lo stesso Gentiloni, c'è una disaffezione sulla centralità, io dico, dei temi ambientali. Se parliamo poi dei temi animalisti siamo quasi all'anno zero. Ma lei quindi come la vede? Cioè, nel senso, ce lo dica chiaramente, lei lo appoggerebbe un partito così? Guardi, anche io vengo da un'esperienza diretta dei Verdi, che in un momento storico hanno dato un contributo importante in Parlamento, quando c'era anche, diciamo, un sistema proporzionale diverso, nel portare avanti battaglie contro il nucleare, la caccia, assieme ai radicali, a tanti altri amici del centrosinistra. Finita quell'esperienza, è chiaro che tutto quel voto si è distribuito in diversi partiti, non ultimo anche il Movimento 5 Stelle. Quindi è chiaro che l'intelligenza e anche il coraggio dell'amica Brambilla nell'aver costituito comunque una federazione molto ampia, dove è preciso che la LIPU non partecipa, perché noi siamo ovviamente apartitici, quindi non potremmo scendere in campo con i nostri dirigenti nelle varie regioni. Loro però hanno fatto una scelta, come direbbe Berlusconi, di campo molto forte. Non so quanto potranno raccogliere come consenso, questo si però vedrà, almeno riapro il dibattito. Il dibattito c'è, Oscar, però io non capisco, cioè, perché per occuparsi delle cause animaliste o ambientaliste serva un partito di scopo, perché poi vedi, questo è, però, cioè, che c'è in Germania, in Olanda. Ringraziamo il presidente Lippo perché ci ha dato anche, secondo me, il corretto criterio di interpretazione che risponde alla tua domanda precisamente. Perché se andiamo al proporzionale, perché Amone Capria ci ha detto, al tempo del proporzionale la nascita dei Verdi svolse una funzione molto importante, e infatti è esattamente così. Il criterio della proporzionale, cioè la moltiplicazione in campo delle possibilità di rappresentanza, che cos'è? È un appello al single issue, alle identità rispetto alle convergenze delle coalizioni di governo possibili, in cui bisogna smussare, e contano soprattutto 3-4 scelte di fondo e un candidato premio. È esattamente così, per questo la legge elettorale è molto importante. Quando vi raccontano, cari ascoltatori, che deve semplicemente aderire alla vostra rappresentanza, vi raccontano palle, perché vogliono semplicemente una legge elettorale che lascia ai partiti mani libere, che perché loro non devono dire con chi si devono alleare, non devono dire come la finanza pubblica, le tasse, vi inchiappetteranno più liberamente e voi non potrete dire alcun cosa che. Facciamo però, Oscar, allora, delle partite IVA, ci saranno, medici, ma vedrai quante liste ci saranno di questo tipo qua. Quindi da questo punto di vista il Berlusca ha semplicemente fatto 1+1 da questo punto di vista, ed è vero, secondo me, in questo sono d'accordo col presidente della LIPU, che questo tema, dopo la fine della parabola dei Verdi, che era diventata più politica che contenutistica nelle ultime leadership di quel partito, lascia un mucchio di temi aperti. Uno, per esempio, oggi, perdona, il Corriere della Sera, pagina 24, c'è una pagina intera, perché così spariscono i lupi in Italia, no? Così spariscono i lupi in Italia. Oppure vai a vedere quante pagine nei giornali locali e nazionali sono dedicate al tema dei cinghiali nel nostro paese. Chiaro. Allora, io cito questi due temi che sono completamente diversi. Il tema dei cinghiali è dovuto da l'iperpopolazione che è stata fatta anche importando razze di biodiversità italiana, non c'erano, e così via, che sono riprodotte nel nostro terreno. La verità è che contemporaneamente ci sono le due Italie di sempre, quella che vorrebbe tenere questo fenomeno sotto occhio ed evitare stragi di animali, e l'altra che è il motivo storico per cui la sinistra sta più con i cacciatori che gli ambientalisti. È farne un partito, cioè, però il problema, guarda, cioè, questi temi nell'Italia ci sono. Ma certo, ma certo, io sono ci contrario sono ai partiti singolisci. E farne, però farne, vedrai che ci saranno. C'è, cioè, come c'è il tema delle pensioni, e c'è il partito dei questo pensionati. Cioè proporzionale tema, è questo. Cioè, capisce? Posso aggiungere una cosa? Noi abbiamo portato in questi ultimi anni anche ad un'estremizzazione di alcuni temi, ad esempio presenza del lupo in Italia. Se deve essere semplificata con un provvedimento oggi in discussione alla conferenza regioni che prevede l'abbattimento fino al 5% dei lupi, che sarebbero intorno ai 300-400 animali già che vengono uccisi dai bracconieri, o dall'avvelenamento o dagli incidenti stradali. È chiaro che tutto quel movimento animalista e ambientalista, che sono centinaia di migliaia di famiglie, perché tutte le nostre associazioni raccolte fanno dei numeri enormi, ovviamente superiori a quelle dei cacciatori non ha avuto la giusta attenzione da parte sono d'accordo. Governo e di un Parlamento di maggioranza, e questo dà spazio a questi tentativi di avere qualcuno che si occupi della difesa della natura. Così ci sarà appunto una moltiplicazione. Noi allarghiamo le braccia, tanti però il proporzionale che piace tanti problemi, tante liste. Non è che piace solo a Berlusconi, piace a tutti, purtroppo, perché vogliono le mani libere, significherà questo. Ma certo, però con questo principio c'è il partito degli operai che hanno i problemi, il partito degli incapienti, ma il partito dei medici per portare avanti le stanze dei medici, il partito degli architetti. Ma non c'è dubbio, noi esodati al Sole 24 Ore faremo una lista, quello è ovvio. Avremo te come leader, ma io credo che, guarda che ci sarà il fiorire, ma è inevitabile, quel proporzionale è quella roba lì. Quindi Berlusconi gli ha semplicemente detto: mi porto avanti. No, ma infatti, allora, però, Mamone Capria, che Berlusconi abbia fatto un'operazione anche di marketing politico su questo marketing, non lo dico in senso negativo, poi ognuno di marketing politico, marketing, cioè, è l'identificazione di un bisogno per un prodotto particolare. Sì. Ma è intelligente, l'operazione è intelligente, anzi io devo dir di più, Berlusconi anche durante il periodo di governo di centrodestra, nonostante i grandi disastri ambientali che ha causato, quando c'erano delle discussioni che riguardavano anche il tema della conservazione della natura, della tutela della fauna selvatica, qualcuno dei suoi rallentava dei provvedimenti in aula, perché ovviamente gli animalisti e gli ambientalisti, parlando con Berlusconi, parlando con il suo entourage, gli facevano capire che erano scelte di campo che favorivano solo alcuni lobby di estremisti, che siano cacciatori, che siano inquinatori, e in alcuni casi la politica è riuscita a fermare determinati disastri. Quindi Berlusconi è anche molto intelligente da un punto di vista politico. Poi è chiaro che ognuno può avere le sue versioni, ma secondo me ha fatto una cosa intelligente, dove gli altri invece stanno a guardare. Ci faccia capire per concludere, Presidente, ma lei a candidarsi non può, perché ma lo voterebbe idealmente un partito che nasce con queste basi? Una lista? Ma si votano i programmi, quindi è chiaro, il programma non sarà certo un programma che non le aggraderà, un programma il programma sicuramente magari può essere interessante. Votare un partito soltanto perché si occupa dei temi degli animali la vedo una cosa difficile. Noi infatti siamo ambientalisti e abbiamo un quadro più ampio della biodiversità della natura, come inevitabile, però sicuramente tanti simpatizzanti, tante gattare, tante persone che soffrono ogni giorno per sostenere i cani abbandonati sicuramente li voteranno, e ci saranno forse anche dei candidati all'altezza della situazione. Anche lì la scelta dei candidati nei partiti o avviene per qualità curriculum, altrimenti diventa una barzelletta. Allora forse meglio il partito animalista che una lista di persone sconosciute. Dopodiché sappiate che magari la lista appoggia Forza Italia, dove ci saranno anche dei candidati cacciatori, perché uno sappia. Il tipo di alleanza ovviamente potrebbe fermare l'adesione di tante persone. Perché se la Lega aderisce ad una coalizione con il partito animalista, chi gli va a dire ai cacciatori del Veneto o della Lombardia, che spesso non sono così corretti nella gestione della fauna selvatica, a trovarsi in Parlamento con l'animalista in questo dico che c'è un'abile operazione di marketing, ma in realtà c'è il rischio, c'è. Comunque noi ringraziamo Fulvio Mamone Capria, presidente della LIPU, e ringraziamolo anche perché io voglio ringraziare la LIPU, che anche sostengo, perché molte delle battaglie che ha fatto negli anni secondo me sono fondamentali. La LIPU insieme ad altre 3-4 grandi associazioni. Comunque, battuta finale, la ringrazio anche perché ovviamente noi che siamo il partito dei gufi abbiamo bisogno della LIPU, perché altrimenti ci hanno bastonato in questi anni. Quindi allora alle 8:39 andiamo un attimo in pubblicità, ci sono gli ascoltatori, non abbiamo finito il tema perché avremo un assessore a Trieste che ci spiega che a Trieste danno dei finanziamenti a chi è indigente e non riesce a dare i crocchini. E che gli dico a Lolo che vuole intervenire? No, non possiamo, non ce l'abbiamo il gattese. Lolo vuole già intervenire nei talk show? Un piccolo comizio. Ma chi è che va nei talk show? Lolo Lulu, eh no, si Lola, eh no, il criterio di rappresentanza è diventato un problema. C'è il consiglio di amministrazione, cioè, chi è quella, della che è Rai, quella che può andare nei talk show e può essere più presentabile. E vedo i maschi però molto molto più ambiziosi e narcisi. Viene fare un casting. Ah, prima. No, assolutamente. Bisogna briffarli prima di andare, prima di rispondere in maniera inadeguata. Assolutamente. Per andare in TV. Dai, tra poco. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, Oscar, abbiamo due Roberti. Andrea Grosseto prima. Roberto da Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Intervenivo su Berlusconi e il suo nuovo partito, il suo nuovo filone di partito. Spero che sia un filone, ma temo che sia l'unica argomentazione che gli sia un po' rimasta. Mm. Fondamentalmente va a caccia dell'unico gruppo sociale, se così vogliamo dire. Caccia non è la parola giusta. Esatto, caccia non è la parola giusta. Però dica, no, cerca di fare l'occhiolino alle nonne e alle signore benestanti, che sono le ultime che possono dargli credito, visto che il suo ventennio ha dimostrato che anche il suo progetto di difendere i ceti produttivi piuttosto che similari è totalmente, diciamo, quelle fallito. Ci sono le mosse un po' della, userei la parola ultime cartucce, ma anche questa con caccia, esatto, non si sposa, ma proprio, non si, cioè, sposa, ma proprio sputolata, cioè veramente sono gli ultimi che possono dare il voto, poi ha finito, vabbè, in bocca al lupo adesso, ecco, anche questo bocca al lupo, bocca al lupo. Devo dire che sembra che se la sia studiata una carrellata di abrasivi luoghi comuni, ma non casuali, come devo dire. Vabbè, Roberto da Grosseto, grazie. Un altro Roberto da Bologna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Niente, io sentendo la trasmissione, cioè, vorrei dire alla ministra Brambilla se si occupasse anche dei diritti proprio assicurativi per i cani, che io ho avuto un sinistro il 30 di aprile, completamente ragione, la mia auto parcheggiata, e le assicurazioni, la mia cagnolina ha avuto un danno neurologico e praticamente le assicurazioni la considerano una cosa. Quindi cioè, non è risarcibile. Io ho già speso qualche migliaio di euro fra trasporti, veterinari, tacche, queste cose qua, e loro dicono un cane. Quindi cioè, sottoponiamo. Beh, dicono un cane, dicendo è un cane, non dicono una falsità. Però. Sì, ho capito che non è una falsità. Allora che cosa vuol dire? Parliamo dei cani, dei diritti, poi dopo se succede qualcosa non hanno diritto a avere un risarcimento delle spese, mica di invalidità permanente o quelle cose lì, ma almeno le spese dei veterinari dovrebbero pagarle. Cosa pensa? O no? Io però le rispondo su questo, Roberto, che qui dobbiamo essere noi, che abbiamo una sensibilità verso gli animali. Sì. Allora, io come giornalista economico mi sono occupato qualche anno fa esattamente di fare una cernita di quali nuovi prodotti assicurativi, di quali case assicurative offrissero prodotti esattamente per dare una risposta alle esigenze che lei ha sollevato. Sì. E questi prodotti hanno iniziato negli anni a, non solo ci sono, ma ad affinarsi, a moltiplicarsi, eccetera eccetera. Quindi chi ha questa sensibilità, Roberto, lui per primo deve munirsi di una polizza di questo tipo. E ce ne sono tante, anche molto interessanti, a dire la verità. Quindi sul mercato la possibilità c'è. È ovvio che se uno il problema lo pone solo a sinistro avvenuto e non è coperto, e allora a quel punto... No, ma non è questione di coperto. Cioè, nel senso che, cioè, voglio dire, a me è stato fatto il danno, perché io ero parcheggiato... Sì, ma qua, quello che le sta dicendo Oscar, che lei doveva prima avere un'assicurazione. Ma io ho l'assicurazione della macchina e di tutto, sono regolarissimo, non ho un'assicurazione. Ma non era per incolpare, Roberto, non era per incolpare lei, era semplicemente per dire a chi ci ascolta e vuole tutele su questo, che bisogna un'apposita assicurazione. Cioè il cane è assicurato perché è obbligatorio assicurare per i danni che può fare o qui discorrendo. Quindi il mio cane è assicurato. Ma se io sono in macchina, scendo e questa qua mi arriva in una proprietà non è assicurato, attualmente non è assicurato, Roberto, siamo ancora a una fase evolutiva del riconoscimento patrimoniale dei diritti e dei danni dell'animale, che ha bisogno di una tutela rafforzata del privato. Infatti, nel allora tempo arriveremo a quello, ma non si arrabbi. No, ma io mi cazzo di brutto invece, cioè, perché cioè, voglio dire, soltanto di trasporto per portare a casa il mio cane, siccome aveva bisogno di una risonanza urgente perché se intervieni nelle prime notte ma hai dovuto spendere 980 euro di tasse. Noi possiamo, l'assicurazione ti viene a dire puoi venire in treno. Sono solidale con lei. No, insomma, solidarietà, però insomma le regole in questo momento sono queste. Comunque immagino che lei sarà interessato al partito degli animali. No. Allora, però noi abbiamo chiamato un assessore di Trieste, l'assessore Michele Lobianco, con le deleghe alle risorse umane, servizi al cittadino, ma anche zoofilia. È corretto, assessore Lobianco? Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Perché abbiamo preciso. Sì, certo. Abbiamo letto questa notizia per cui al comune di Trieste nei confronti delle persone che non possono permettersi, che ne so, spese veterinarie per i loro animali, sono in una situazione di indigenza economica o anche immagino cibo eccetera, il comune di Trieste, grazie anche alla collaborazione con l'EMPA, mette a disposizione che cosa? Allora, per fare un quadro più netto e preciso, il comune di Trieste ha una posta a due interventi in campo. Ecco, due interventi a sostegno appunto degli animali. Uno, appunto quello che lei cita, è una piccola posta di bilancio dedicata a chi è indigente, a chi ha reddito zero, a chi e chi ha pensione minima, per le cure veterinarie. Questo è un contributo che viene girato all'EMPA e poi c'è veramente tutta la rendicontazione, ovviamente quella tecnica, eccetera, eccetera. E poi l'altro intervento, sempre appunto nei confronti di appunto della sensibilizzazione nei confronti degli animali, è quello di un contributo per il cane anziano, ossia noi abbiamo nel nostro canile convenzionato dei cani, chi volesse prendere un cane anziano dai 7 anni in su riceve un contributo di 50 euro mese a sostegno e cura. Perfetto. Ecco, no, su questa cosa, io so che poi mi scorno con Oscar dopo, adesso quando beviamo il caffè ci arrabbiamo. Io dico, ma noi abbiamo prima sistemato tutte le problematiche di tutti gli esseri umani, in questo caso a Trieste, prima di occuparci con massimo rispetto dei cani e dei gatti? Guarda, io attendevo questa sua domanda, che è tipica, una cosa non esclude l'altra, insomma. E quindi noi abbiamo un servizio di protezione sociale tra le migliori in Italia e possiamo chiaramente anche dedicarci ovviamente anche agli animali. Cioè, bisogna, come dire, rispettare e guardare, come dire, un'azione amministrativa a 360 gradi. Noi possiamo farlo e lo facciamo. Tutto qui, insomma. Ecco. Poi deve capire una cosa: Trieste ha una caratteristica, una città caratterizzata da una grande sensibilità nei confronti degli animali. Lei pensi che abbiamo oltre 22.000 cani censiti, stimati a casa come gatti domestici? No, ma perché poi a Trieste, dove c'è anche una composizione demografica particolare della città e più avanti d'Italia, nel senso dell'invecchiamento, gli animali domestici assolvono anche una funzione di compagnia per decine e decine di anni. No, è così. Però Oscar non si è arrabbiato alla mia obiezione. Ecco, dopodiché le posso anche per configurare, abbiamo qualcosa come 510 colonie feline seguite da 105 gattari. Grande città. Gattari con tanto di patentino. Lo so. Eccetera. Sappia che una delle più grandi gattari triste, ahimè, non c'è più, era Margherita. È Margherita, sì. Dopodiché, un altro dato che poi sfugge, perché sfugge spesso, è che il sindaco è il gattaro capo, perché la legge dice che i sindaci, non di Trieste, tutti i sindaci d'Italia hanno la responsabilità su i gatti o i cani randagi. Noi grazie a Dio a Trieste non abbiamo il randagismo dal punto di vista dei cani, ma abbiamo ovviamente quello che è diffuso, quello dei Il randagismo abbiamo fatto, tranne che in alcune regioni, soprattutto sud, molti passi avanti per sconfiggerlo, ma invece è diventata la malattia dei politici che sono randagi perché transumano di lista in Parlamento il record. Quindi anche per questo, vedi, il partito animalista è un passo avanti rispetto alla politica attuale. nel nostro paese. In ogni caso, insomma, l'assessore Lo Bianco ci sta spiegando e ci ha spiegato, insomma, nel perché di questo contributo. Noi, assessore, la ringraziamo. Assessore a Trieste, Michele Lo Bianco. Ma Oscar non si arrabbia, io ho cercato di farla arrabbiare. No, no, ma io so che nel tuo caso io devo essere comprensivo, perché quando sei andato nei Salesiani hai preso troppo alla lettera Genesi, il passo alla Genesi che dà all'uomo il potere pieno su qualunque. Ma non potere in maniera cattiva. E te l'hanno spiegata così, e invece sai, basta vedere, poi invece non è così, non è così. Tutti gli esseri viventi, e anche la natura in termini più ampi, ha bisogno di un certo rispetto, e certo, i viventi hanno bisogno anche di diritti riconosciuti, certo, soprattutto come quando nel nostro caso li abbiamo, ohimè, nazisticamente asserviti, ma come abbiamo fatto con gli animali, geneticamente li abbiamo selezionati per questo. È vero, come dice Gandhi, spietati, che insomma, a livello di una nazione si vede anche dal rispetto nei confronti degli animali, ed è giusto, infatti io li voglio. Lasciami finire questa trasmissione, sennò poi ci siamo troppo leggeri. Guardate, cari amici, nei giornali non trovate grande rilievo, però guardate che la notizia aggiorna che ieri l'Unione Europea ha detto le due banche venete o trovo un altro miliardo privato o bail-in sotto lezioni. Ecco, l'economia italiana del rinvio della politica e questa roba qua, altre fregature in arrivo sulle due banche Veneto, cari ascoltatori. Come Radio 24 speriamo che almeno noi ve lo spiegheremo bene. Continuate. Ci vediamo, ci sentiamo domani, se vorrete. Siamo sempre qui con Elisabetta Fosconi, Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia. A domani!